racconterò la favola di un cavaliere, delle sue guerre perse, delle sue preghiere, amante del coraggio, amante dell'onore, virtù che mai nessuno gli poté rubare. D'orgoglio la sua anima si era nutrita, la dignità davanti alla sua stessa vita. Lo sguardo lo teneva in alto come scudo, la voce la sua spada sopra il braccio nudo. Vagava solo e libero nelle foreste, fuggiva dalla gente come fosse peste, guardato con timore, spesso con distacco, pensato come un tipo strano e un po' bislacco. Un giorno un cavaliere del suo stesso rango gli disse: a voi la strada, passerò nel fango. Il nostro eroe però non lo poté accettare, non ne ho diritto, disse, si dovrà duellare. Ma l'altro cavaliere si era già spostato, cespugli e rovi con un salto attraversato, sentiero era ora libero per concessione, e non a seguito di singolar tenzone. Così davanti a sé lui non poté più andare, né come uno scudiero si poté accodare. Rimase allora l'impietrito ed incapace di fare un passo avanti e darsi un po' di pace. Lo ritrovarono in quel posto anni dopo, coerente d'un sol pezzo come sempre è stato. Su un albero lui si era costruito casa, con gli animali e il vento c'era già un'intesa. Ma il verde dell'orgoglio si era scolorito, su quella pianta se ne stava appollaiato. Lontano dagli sguardi, dalla civiltà, brillava un rosa pallido color di vanità. Ma il verde dell'orgoglio si era scolorito, su quella pianta se ne stava appollaiato. Lontano dagli sguardi, dalla civiltà, brillava un rosa pallido color di vanità.